Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre alcune brevi informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito, rinnovato da poco, radio24.it, e sapete che potete anche dialogare con i giornalisti che hanno un blog, il mio lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate anche attraverso un motore di ricerca. L'ultima informazione di servizio è quella che riguarda la nostra mail, un abuso al giorno, @radio24.it. Allora, come sapete io non amo molto, anzi affatto, affrontare casi personali, salvo che non siano in realtà di interesse generale. E ci troviamo proprio in questa situazione, perché una nostra radioascoltatrice dalla provincia di Milano, Sonia Boldini, ci ha mandato una bella lettera, molto interessante. Perché? Perché lei pensava, o meglio, voleva usufruire di questa iniziativa promossa dalla provincia di Milano, che si chiama Mutuo Approfitto, promossa dalla provincia di Milano insieme alle banche di credito cooperativo, per poter sostituire i serramenti della propria abitazione, quindi interventi di riqualificazione energetica, quindi risparmi e via dicendo. Ebbene, non è stato poi così facile. Per capirne di più, noi abbiamo chiamato ovviamente la nostra radioascoltatrice, alla quale do il buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo chiamato il dottor Alberto Manenti, che è il vice direttore dell'area di affari della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina. Buongiorno. Buongiorno. E poi lasceremo la parola conclusiva per il commento a Roberto Anetta, che è direttore marketing di Mutui Online. Se andate su mutuionline.it vedete che è uno splendido portale in cui chiedere e trovare tutte le informazioni per mutui, risparmi, mutui a confronto. Insomma, è un portale che dà veramente un quadro sostanziale delle opportunità in questo momento in corso. Buongiorno Anedda. Buongiorno a lei, agli ospiti e a tutti gli ascoltatori. Allora, voi direte, ma se tu hai detto che c'è anche la provincia di Milano interessata, perché la provincia di Milano non me la nomini? Allora, noi abbiamo cercato come dei cani da tartufo ad inseguire il dottor Sergio Zabot, anzi credo che sia un ingegnere, che è il responsabile del dipartimento della provincia di Milano, competente per materia. Allora, e questa cosa è straordinaria, perché Zabot ci ha detto che non è in alcun modo interessato ad intervenire in trasmissione. La cosa straordinaria è che ce l'ha detto senza sapere il motivo per cui l'abbiamo chiamato, ce l'ha fatto dire attraverso i suoi uffici. A voi ogni commento. Partiamo dalla dottoressa Boldini. Allora, che cosa è successo con questa iniziativa? Allora, all'inizio del 2009, con l'intenzione di cambiare i serramenti del nostro appartamento, ci siamo informati sulla possibilità di usufruire di alcuni incentivi o contributi. E ovviamente eravamo stati informati che svolgendo i lavori nel 2009 avremmo potuto usufruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica. Inoltre siamo stati informati tramite diversi mezzi pubblicitari e anche dalle ditte che svolgevano lavori in merito ai serramenti, che nella provincia di Milano era possibile usufruire di un particolare mutuo chiamato Mutuo Approfitto per l'anno 2009. Certo. E in particolare ci è stato chiarito che questo mutuo era cumulabile con la detrazione del 55%, quindi quella di natura nazionale, diciamo, insomma. Esatto. Quella da decreto legislativo del 2008, insomma. Perfetto. Sì. E quindi c'è un doppio vantaggio nell'effettuare i lavori in queste particolari condizioni. Ecco, io direi di arrivare un momento alla conclusione, perché lei contava e sperava di poter avere questa doppia facilitazione, ci è stato effettivamente concesso questo mutuo. Certo. Nell'aprile del 2009. Noi abbiamo svolto i lavori del caso, pagato le somme pattuite, mm-hmm. e a distanza di un anno, quindi noi stiamo rimborsando effettivamente alla BCC le rate di questo mutuo, sì. Veniamo improvvisamente informati che dalla banca solo dalla banca e non dalla provincia, che è parte attiva in questa, certo, questa vicenda. È talmente attiva che non viene in trasmissione. Che purtroppo a distanza di un anno non è più possibile per noi usufruire di entrambi i contributi. Quindi o l'uno o l'altro. O l'uno o l'altro. In particolare non ci viene chiarito in che misura il contributo non è cumulabile. Va benissimo. Il contributo di cui noi usufruiamo è essenzialmente il 2,5% degli interessi sul capitale. Benissimo. Che la provincia dovrebbe erogare. Benissimo, io la interrompo un secondo perché il caso mi sembra abbastanza chiaro. Lei, lo aggiungo io, come scrive nella lettera, ha cercato di contattare anche l'Enea, l'Agenzia delle Entrate, ma ovviamente, direi in maniera un pochettino maligna, non ha ricevuto risposta. Dottor Manenti, vice direttore dell'area di affari della Banca di Credito di Cooperativo di Barlassina, mi pare, innanzitutto grazie perché voi la faccia ce l'avete messa e anche la voce, anzi, però mi pare che voi siate, come dire, soggetti passivi in questo caso, ma cosa succede con la provincia? Esattamente, come diceva la dottoressa Boldini, noi ci siamo fatti carico di informare tutta la nostra clientela che era interessata da questa fattispecie sui contenuti della circolare diramata il 23 aprile dall'amministrazione finanziaria, successivamente a un'altra precedente del 26 gennaio, con la quale a seguito di un interpello della Regione Piemonte, quindi come vede una cosa quando si parla di fisco sempre molto complicata, chiariva esattamente l'opzione o detrai investimenti il 55% della spesa oppure benefici del contributo in conto interessi. Contributo in conto interessi erogato dalla provincia, in quanto a completamento il mutuo a profitto ha un tasso facciale del 5%, 2,5 ce li mette la provincia, 2,5 ce li mettono le banche di credito cooperativo. Ho capito. E confermo appunto che noi continueremo a fare la nostra parte, perché continueremo a riconoscere e a retrocedere. Certo, questo è sacrosanto. Ecco, ma voi avete avuto facilità di interlocuzione con l'Enea, l'Agenzia delle Entrate, la provincia di Milano? Siete stati più fortunati di noi oppure no? La comunicazione con l'Agenzia delle Entrate avviene attraverso circolari, quindi ecco, attraverso tutte le modalità con cui ogni cittadino, certo, ha l'accesso. E poi abbiamo anche il contributo molto fattivo della nostra federazione che ci supporta nella comunicazione ai clienti, certo. Nella comunicazione. Allora, io direi, Roberto Anedda, direttore marketing, ripeto, di Mutui Online, il sito si chiama proprio così, esperto di queste vicende, un commento: com'è possibile, e anche una via d'uscita, se esiste, com'è possibile che uno debba venirlo a sapere dalla banca, per carità, onore al merito della banca, e non invece dai soggetti che sono più interessati, cioè la provincia, l'Agenzia delle Entrate, l'Enea? Che cosa si può fare? Sì, purtroppo in primis appunto ha fatto un plauso alla banca che si è fatta promotrice dell'informazione presso i clienti per evitare che potessero avere problemi peggiori e, certo, nel frattempo ha proseguito con il mantenimento del proprio impegno, del proprio contributo per quanto riguarda la sua parte, mentre secondo me, concedetemi il termine, inqualificabile il fatto che la provincia di Milano, per di più con una persona ben precisa, faccia dire dal suo ufficio che non è assolutamente interessato a intervenire su niente. Se questo è l'interlocuzione del servizio pubblico, andiamo bene. Certo. Essere ovviamente i nostri microfoni sono sempre aperti alla provincia di Milano, eh? No, certo, ma ecco, tra l'altro, però questo ci è stato detto. La casistica, dato che appunto il bando del 2008, quindi ha sicuramente riguardato non solo certo, la signora Boldini, ma tanti, certo, altri, certo, che magari non hanno avuto la stessa efficacia nel farsi sentire, eccetera, è una questione aperta. Purtroppo, così come è successo ad esempio per il mutuo di surroga tre anni fa, quando era stato lanciato che era a costo zero, ma le banche non avevano capito se era a costo zero o meno, poi si è intervenuti per chiarire e le spese richieste in più sono state più o meno restituite o comunque, ecco, quindi bisogna aspettare causa per restituire. Quindi siamo nella stessa fattispecie, dobbiamo aspettare una circolare interpretativa, qualcosa che spieghi meglio, insomma. Perché la circolare interpretativa c'è stata, però poi non chiarisce se c'è un singolo intervento come questo della, esatto, provincia che possa invece essere considerato ottenibile. Il mio unico timore è che Nel momento in cui si chiarisse che anche questo incentivo non è cumulabile, ci sarà poco da fare, anche se uno può far valere il fatto che va fatto dei conti, certo, dichiarata, perché poi nel bando del 2008 della provincia si faceva esplicito riferimento nella sezione delle domande frequenti e dei chiarimenti. Ecco, non ci si può più fidare proprio di, esatto, di nessuno, nemmeno della, carta che si suol dire che canta, invece spesso così non è. Allora, noi continueremo a seguire questa vicenda anche nei prossimi mesi, ci tenga al corrente Sonia Boldini, e io la ringrazio della sua segnalazione, così come ringrazio Alberto Manenti, vice direttore dell'area affari della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, anche a lei l'invito a tenerci al corrente, Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, grazie in regia a Michele Previato, in studio a Laura Fagina e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.